Tocca gli angoli della bocca perché io possa sentire i tuoi respiri, lo sfiorarsi piano piano della pelle in un vortice veloce di pensieri. Ferma le tue mani sulla soglia e resta lì a guardarmi sulla porta. Togli le lancette all'orologio e spogliano del tempo che ci inchioda. E stancami di sguardi indefiniti, sorvolami le ombre che conosci. Disegna sul mio viso il tuo sorriso perché io possa capire. Che ti scorre e dai alle mie spalle nuove forme, prendimi dal cuore che mi sfugge e fammi sentire i limiti e l'immenso. E a quello che ti piace cambia il nome, così non hanno senso le parole. Scopriamoci di essenza naturale, così diventi vento e Dio le foglie. E stancami di sguardi indefiniti, sorvolami le ombre che conosci. Non perderti per niente, per nessuno, perché io possa capire. Io possa capire.